America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, Countdown 100 Days. Siamo al conto alla rovescia per i 100 giorni di Donald Trump alla Casa Bianca. 100 giorni che, come sappiamo, il presidente tende in qualche modo a sminuire. Dice sono soltanto un traguardo artificiale, non dobbiamo dare troppa importanza a questi 100 giorni. E poi però che fa? Beh, ha convocato ieri alla Casa Bianca tutti e 100 i senatori americani, beh, con la scusa di parlare della Corea del Nord, ma in realtà per parlare proprio dei suoi primi 100 giorni, della necessità che le cose si devono fare, che lui come presidente deve essere in grado di portare avanti la sua agenda politica. E vediamo un Donald Trump che si rende conto che, insomma, gestire gli Stati Uniti d'America e la democrazia americana non è come gestire un condominio di uno dei suoi grattacieli. È qualcosa di molto più complesso, soprattutto nella separazione dei poteri, nella possibilità, come abbiamo visto per i giudici, di intervenire, nella possibilità dei deputati, dei senatori, anche singoli, di bloccare magari una legge, una proposta di legge, come abbiamo visto quando un gruppo di repubblicani, quindi del suo stesso partito, ha impedito la riforma dell'Obamacare. E dunque in questo contesto, quantomeno per lasciare un segno del fatto che il suo attivismo in questi 100 giorni ha prodotto qualche cosa, il presidente americano, o comunque la sua amministrazione, perché l'annuncio è giunto da Steve Mnuchin, il suo segretario al tesoro, ha annunciato una radicale proposta per riformare il fisco americano. Sentiamo Mnuchin. Tax reform is a major priority to boost the economy. So this is going to be the biggest tax cut and the largest tax reform in the history of our country. La Camera, il Senato e l'amministrazione sono d'accordo. La riforma fiscale oggi è la priorità per rilanciare l'economia americana. Questo sarà il più grande taglio delle tasse, la più ampia riforma fiscale della storia degli Stati Uniti. Vi ho detto che questo non era vero, perché i dati ci dicono il contrario, non ve li ripeto. Vi avevo raccontato dei tagli fiscali di Ronald Reagan, per esempio, in tempi recenti, che avevano applicato riduzioni molto più incisive di quelle che ha proposto Donald Trump. Ma la cosa interessante è che in questa proposta intanto ci sono pochi dettagli, perché per esempio non ci dicono quali sono i tre scaglioni. Cioè sappiamo che ci sono tre scaglioni, e i tre scaglioni, le aliquote da applicare ai tre scaglioni su cui si pagheranno le tasse, sono del 10%, del 25%, del 35%. Però non ci viene detto quali sono i livelli di reddito a cui questi scaglioni saranno applicati. Sappiamo una cosa però: che le famiglie con un reddito inferiore a $24,000 l'anno non pagheranno le tasse. E questo è già un passo in avanti molto importante, perché quasi raddoppia la soglia minima a cui la famiglia americana può essere tassata. Dunque sappiamo che il primo scaglione partirà da $25,000, ma non sappiamo fino a dove arriva. Arriverà a $100,000 per un'aliquota del 10% o a $50,000? E il secondo scaglione del 25% sarà da 100 a 300 o da 50 a 150? Però questo è simbolico di questa proposta riassunta in una paginetta dell'amministrazione Trump. Non ci sono ancora dettagli. Molto interessante questo compromesso sul 35%, perché Donald Trump aveva promesso di scendere dal 39,6%, che era l'aliquota massima, addirittura al 28% come aliquota massima. Poi si è dovuto mettere d'accordo con le controparti in Congresso. In effetti sarebbe stato un salto troppo forte. Il disavanzo complessivo avrebbe potuto superare fra i 2.200 e i 2.400 miliardi di dollari, e questo è un numero che resta valido anche adesso. E come si finanzierà? Questo lo vediamo fra poco. Voglio restare ancora sulla proposta di riforma fiscale, perché credo che questo interessi anche voi. Immaginate se all'improvviso vi dicessero che, insomma, la vostra aliquota massima sul reddito è del 24%, del 25%. Non sarebbe male, perché da noi, tra una cosa e l'altra, le aliquote viaggiano su livelli molto più elevati, anche per stipendi molto più bassi di quelli previsti da Donald Trump. In tutto questo, però, Donald Trump ha anche eliminato alcune deduzioni. E alcune delle deduzioni non sono secondarie, perché, attenzione, non confondiamoci, il 25%, diciamo, di aliquota media è l'aliquota applicata per le tasse federali, ma poi ci sono le tasse statali e le tasse locali. E per esempio in uno stato come New York, quando l'aliquota massima era al 39%, le tasse statali potevano arrivare anche al 10%, quelle locali anche al 5-6%, e dunque ecco che si superava ampiamente la fascia del 50%. Adesso Trump vuole impedire la deduzione di quelle tasse già pagate alle municipalità e agli stati dall'ammontare complessivo. eccessivo, e questo, devo dire, sarebbe un disastro, soprattutto per chi, come me, vive a New York e deve pagare fra le tasse locali più salate d'America. E poi, e poi c'è l'architrave di questo progetto, cioè la riduzione dell'aliquota dal 35 al 15% per le aziende. Su questo Donald Trump non ha modificato la sua posizione di un millimetro, e devo dire che è questo poi l'elemento più importante che finisce per incidere sul fisco americano, perché qui togliamo un 20% tout court dalle imposte delle aziende americane. Trump riduce anche dal 35 al 10% l'aliquota per il rimpatrio dei capitali parcheggiati all'estero, degli utili parcheggiati all'estero, e questo dovrebbe consentire il rimpatrio di circa 3.000 miliardi di dollari. Ma anche qui parliamo di cose relativamente fittizie, perché poi alla fine la cassa di una grande multinazionale resta la cassa dovunque i quattrini siano parcheggiati. Sentiamo di nuovo Mnuchin. We're working on lots of details. As to this, we have over 100 people in the Treasury that have been working on tax and scoring lots of different scenarios. This will pay for itself with growth. Ecco, qui Mnuchin cerca di dare la risposta a quel che vi dicevo prima, al disavanzo che viene indotto da questo taglio fiscale di 2.400 miliardi di dollari. E Mnuchin dice nella dichiarazione che ho fatto ascoltare: stiamo lavorando sui dettagli, ci sono oltre 100 persone al Dipartimento del Tesoro impegnate su questo dossier in questo momento, ma posso dirvi che la riforma consentirà di autofinanziare i mancati introiti fiscali grazie alla crescita economica. E qui torniamo alla curva di Laffer. Il grande economista Laffer, grande ispiratore di tagli fiscali di Ronald Reagan, di fatto diceva che cosa? Beh, che se si eliminano le tasse, la gente è pronta a spendere, a consumare. Questo mette in moto l'economia. L'economia comincia a girare molto più rapidamente. Mnuchin ha stimato dei tassi di crescita del 3%. Questo significa che aumenta l'occupazione, aumentano i salari e aumentano naturalmente gli introiti fiscali. Dunque un circolo virtuoso, temo però, che apparteneva ad altri tempi, perché ai tempi di Reagan, quando si applicò questa teoria, i tassi di crescita erano anche del 5, del 6%, l'occupazione cresceva a vista d'occhio. Qui abbiamo già fatto 15 milioni di nuovi occupati, l'economia cresce ormai da quasi 9 anni continuatamente. Quanto si potrà mungere da una possibile ripresa economica? Io non credo tantissimo, per questo i mercati sono stati un po' prudenti, però attenzione, non hanno venduto. Tutto sommato avevano già scontato l'introduzione di questo progetto di riforma fiscale, dunque hanno mantenuto i nervi saldi. Ma sul piano politico, sul piano politico il dibattito è soltanto partito. Lo stesso Mnuchin ha detto: non credo che prima dell'autunno riusciremo a trovare un compromesso per una proposta di legge che possa consentirci di andare avanti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Parliamo di tasse, di fisco, di agenzia per le entrate, dunque di Johnny Paycheck, Me and the IRS. L'IRS è l'Internal Revenue Service, il fisco americano. Well, you can tell them boys at the IRS, this old boy, hell, I've had enough the way the big man rakes it in, the little man coughs it up. Well, the bite keeps getting bigger and the paycheck keeps getting small. You know the IRS ain't gonna rest till they think they've got it all. They got rough on a lot of folks, but honey's I ain't one. From now on, I'm keeping my pay. They're gonna deduct nothing. Take 1040 forms and shove them. Straighten out their own damn mess. You can write me off, 'cause I ain't giving a dime to the IRS. Alright. How can I keep my arm around my woman with Uncle Sam's hand in my pants? If I can't pay the fiddler, how the hell am I gonna dance? Don't mind kicking in my fair share. I might even back up and say yes. But the big man plays while the little man pays. So to hell with the IRS. Da New York è tutto, Mario Pretero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!